Rieccomi tornato ai microfoni di Radio Wombat dopo una lunghissima pausa estiva. Ecco, già inizio subito con le questioni tecniche. Sembra i volumi molto bassi. Ora ecco, ce l'ho fatta, ho equiparato la musica alla voce, così non è troppo strano il passaggio. Spero almeno di esserci riuscito a modino. Ci eravamo lasciati tantissimo tempo fa, alla fine del lockdown, poi c'è stata l'estate, ora siamo ritornati al quasi inverno, è ripartita la tarantella, come vi sarete ben accorti. Speriamo comunque di riuscire a continuare con le trasmissioni della radio, anche perché le ho appena riprese alle brutte, come abbiamo fatto già durante il lockdown. Continueremo dalle nostre regie casalinghe, ma per oggi no, oggi sono qua nella Wombat regia solita e sono contento di esserci, peraltro, nel senso che comunque è in qualche modo rassicurante. Serenante essere fuori casa e quindi boh, beh, che bello. Ecco, che bello. Mi ero preparato anche una puntata ad effetto per il nuovo, per, diciamo, questa nuova stagione di Coccoli al Silicio, una puntata penso addirittura la numero 70, quindi un numero tondo tondo. Questo lo dico solo perché su qua il desktop della Wombat Regia c'avevo una puntata che era la numero 69, e spero insomma che di non aver sbagliato, e la 70 l'ho già fatta, ma non credo, secondo me non l'ho mica fatta, mi ero fermato a quell'altro numero prima del 70, il 69. E appunto per la puntata ad effetto volevo aprirlo, aperto con i Das Effects, che appunto, cioè perché ho detto puntata ad effetto, Das Effects, che sono un gruppo hip hop vecchio stile, roba di parecchi anni fa, insomma sempre intorno al 2005, 6, 7, non me lo ricordo più, comunque era una roba del genere. E appunto per oggi avevo preparato un sacco di cosine, poi mi sono dimenticato tutti i libercoli a casa che mi ero preparato per bene, e quindi alla fine faccio la puntata improvvisata, sempre con gli argomenti che avevo deciso, ma me la improvviso un po'. Era una puntata molto libraria, peraltro, nel senso che volevo parlare appunto di un sacco di cose che sono state edite durante questa fase post-lockdown, che hanno iniziato a circolare questa estate. Volevo anche raccontarvi un pochino, perché molte cose sono accadute, peraltro siamo riusciti in qualche modo a fare hack meeting, una roba, un piccolo miracolo, peraltro. È avvenuto a Roma, a Forte Prenestino, lì appunto sono state presentate diverse produzioni librarie. La maggior parte di quelle di cui vi volevo parlare, in realtà in qualche modo vedono me medesimo, ma in generale l'ECLAB IFDU come propulsore di queste letture, questi testi. Però in realtà la prima notizia di cui volevo così raccontare un pochetto, non c'entrava niente con tutte queste produzioni librarie, ma era una cosa che è successa proprio in quest'ultima settimana, mi sembrava interessante come commentarla. Ebbene, e questo riguarda un leak, non neanche eccessivamente di roba tutta nuova, però comunque un leak buffo su 4chan, che è una delle chat, diciamo, dei forum chattosi storici su cui erano nati ad esempio il gruppo di Anonymous in America e queste cose qua. A un certo punto qualcuno ha buttato fuori un link a un torrent, scusate, e in questo torrent c'era, sorpresa sorpresa, diverso materiale riguardante la Microsoft, e in particolare alcune vecchie versioni di Windows, in particolare XP 2000 e 2003, cioè Windows 2000 e Windows 2003, più altro codice sparpagliato, sembrava un grosso raccoltone, lo è. Io ho faticosamente scaricato in questi giorni, faticosamente perché sono 53 giga di roba con la mia connessione de merda, ci ho messo 3 giorni a tirare giù tutto, perché questi sono i miei potenti mezzi. Ebbene, in questo leak si trova materiale che normalmente non è disponibile al popolo, cioè, ovvero i sorgenti, pare non del tutto incompleti, cioè qualcuno ha provato a compilare quello che si trovava e pare che venga fuori un'immagine incompleta, ma comunque tendenzialmente funzionante, quindi potrebbe essere, diciamo, un leak autentico in qualche modo, cioè il materiale è autentico, e appunto si trovano svariate cose che riguardano la Microsoft. Ci sono delle cose particolarmente vintage, cioè dei sorgenti di alcune vetuste versioni di MS-DOS, e poi si trova anche altro materiale che era già apparso in altri leak anni or sono. Si trova ad esempio la prima versione del codice dell'Xbox, no? La piattaforma per giocare, quella lì, che però pare fosse già uscita nel 2017, questa cosa. Poi si trovano dei pezzi di alcune componenti di Windows 10, però anche queste pare fossero già state leakate in precedenza. Però invece pare esserci, o almeno così, cioè c'è, nel senso che scompattando i vari file compressi che ci sono dentro al leak, si trova i sorgenti di XP, i sorgenti di Windows 2000 e i sorgenti di Windows 2003. È una cosa buffa, sembra un leak costruito in qualche modo ad arte per essere un po' confondente, tipo c'è anche una directory dentro con dei PDF che riguardano in realtà alcuni libri, cose, componenti di Windows e cose simili, ma c'è anche una directory con dei video, e questi video si spazia un po' tra alcuni riguardano software libero, cioè tipo c'è come Revolution OS. C'è un'altra roba che parla di free software, ma poi ci sono dei video complottisti di quelli che vedono Bill Gates al centro di chissà quali trame oscure, non ultime quelle legate alla questione del coronavirus, e tutte queste cose qui che richiamano un pochino lo stile complottista dei gruppi che si rifanno a QAnon e a tutte queste cose qua. È la parte più cioè quella che definirei quasi la parte chi cazzo se ne frega del leak. Insomma, interessante era la parte tecnica, tutto il resto è accessorio, contorno, costume, colore, se secondo me. Eppure niente, ho cercato un po' online. Qualcuno che avesse avuto già tempo, ma il codice evidentemente è troppo, di analizzarlo per capire boh, quantomeno l'autenticità dell'oggetto. Pare appunto ci sono un paio di video riportati di persone che sono riusciti a compilare questi cosi, e quindi pare che tendenzialmente il sorgente sia utilizzabile, quindi non siano solo stralci, che sebbene manchino delle cose, tipo si citava per XP, manca sicuramente winlogon.exe, che non è una componente proprio da piccola, però tendenzialmente il codice c'è. Sarà interessante vedere cosa viene fuori nei prossimi mesi, posto che è tutta roba abbastanza vetusta, a parte quei pezzi di Windows 10. E tendenzialmente XP è un sistema ormai non più supportato da Microsoft da una vita, cioè penso che il supporto sia cessato tipo nel 2015-2014, una cosa del genere, quindi non è particolarmente problematico, a meno che chiaramente, come spesso accade per retrocompatibilità nelle cose Microsoft, dentro non ci sia codice che tale quale è stato riportato anche nelle versioni successive, e quindi potendo vedere i sorgenti, chiaramente diciamo, la capacità di individuare bug o cose simili di un possibile attaccante aumenta un pochetto, no? Perché al posto di dover sempre tirare a indovinare dagli ID debugger, qui c'hai direttamente il codice sorgente, sarà interessante spaziare, guardare, trastullarsi nei commenti e queste cose qui. Insomma, pare che la roba abbia suscitato abbastanza interesse nelle varie comunità che seguono le robe di security. In quelle più giocose, in quelle più seriose, così. E quindi presumo che nei prossimi mesi riparleremo ancora un pochetto di questa cosa. Per ora, se ve lo volete scaricare, la cosa più semplice alla fine è cercarvi le cose direttamente o su 4chan. Io l'ho trovato anche spaziando su Twitter. Si guarda un po' negli articoli, dice che è stato rilasciato. Insomma, con una specie di firma, questo Bill Gates 3, il torrent in realtà c'è un nome abbastanza esplicativo che è tipo Windows Source Code, una cosa del genere, il nome del torrent. Comunque sta circolando abbastanza. Cioè, per dirvi, tipo, io ho provato a scaricarlo e c'erano tipo 80 seed di sta roba, di cui 40 ti ci appicciavi a scaricare. Quindi è una roba che tendenzialmente è stata rilasciata al pubblico e il pubblico giustamente un'occhiata gliela sta dando. Certamente tutto materiale coperto da copyright, però circola abbastanza liberamente in rete, quindi boh, cioè io un'occhiatina, mi inviterei, siete dei curiosi, a dargli. Certo, 53 giga di roba è una palla da tirare giù, però insomma tant'è, tant'è. E ora vi metto un pezzetto sempre di DazFX e poi iniziamo magari questa carrellata di libraria, di presentazioni di piccole produzioni. Volevo partire la prima. E ho la modestissima fanzine dell'Hack Club If2, visto che ve l'ho citato prima, però ve lo racconto appunto dopo che abbiamo messo su un altro pezzettino da ascoltare, visto che appunto ho riniziato da poco e cioè, c'ho bisogno di tempo a preparare mille cose. Se poi evitavo anche di dimenticarmi tutto quanto a casa, era più agile la puntata. Invece così vi metto un pezzo che dura 5 minuti e 50, almeno ho tempo di andarmi a ricercare le cose online e rinfrescare la mia memoria, che ce n'è poca poca comunque anche di quella. E quindi Das Effect, volevo farvi sentire un pezzo che si intitola Jungle, perché mi sembrava adatto. Cioè, più che altro perché dura 5 minuti e 50, l'ho scelto solo per questo, in verità. I'm from where the days are short and the nights are long. And when I'm stressed out, I write a song and analyze the right from wrong. I speak for a half a million that fight like Israelis and Palestinians. You dark enough, watch the trees, you barking up. Done they even lock sharp enough. Now that's some other shit. The government is scandalous and try and cover shit. I'm on some CMB, keeper of my brother's shit. There's a lot of pain in this grain that we go against. Life's a dirty game, you even play a hoe or pimp. Weed and cracks, cats be switching up the product. And every week or two, another school getting shot up. Little niggas turning killer at an early age. Sending other little niggas to an early grave. They always say that the good die young, especially in the hood I'm from. Feel me? It's like a jungle sometimes, it make you wonder how I keep from going under. How I keep from going under. Yo, it's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. Like the jungle sometimes, it makes me wonder how I keep going under, how I keep going under. Yo, it's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under. How I keep from going under. Well, yo, I don't know where to start, so I wear where I am. Sometimes in this world, I don't know where I stand. I'm just trying to make bread and share with the fam. Do what I gotta do to take care of my fam. Look, 1 minute, yo, I'm getting ready for tour. The next minute, yo, I hear we getting ready for war. The news be giving me the blues like B.B. King. The thrill is gone, man, this life ain't no easy thing. If it ain't one struggle, it's a motherfucking other. Every day my sister having beef with my mother. Sometimes I say, fuck it, Dre, why even bother? I'm still trying to work this shit out with my father. My old lady say I stress too much. A lot of shit be on the brain, I don't rest too much. I guess living in the jungle got me uptight. Trying to figure out a plan that got me up nights, man. It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under. How I keep from going under. Yo, it's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under. How I keep from going under. Yo, it's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under. How I keep from going under. Yo, it's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under. Collectors, they ring my phone and scare my wife when I'm not home. Done. I swear to God, times is hard, but I ain't giving in. I'm trying to get to heaven and out this hell I'm living in. And can't no man stop me, what? It's obvious. They even want to lock me up or pop me up. We smoke weed and spill Henny. They killed Diallo, but they ain't want to kill Timmy. Make it make fate. I can get the guest stay. Was trying to say fuck my people indirectly. We say fuck you, you can get touched too. Cause niggas in the hood gon' do what they must do. We hustle, we just trying to get by. AJ, yo, we talk shit, get high. Understand, life's a bitch, then you die. But real niggas never die, only multiply. Feel me? It's like a jungle sometimes. It make me wonder how I keep from going under. How I keep from going under. Yo, it's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under. How I keep from going under. Yo, it's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under. How I keep from going under. Yo, it's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under. How I keep from going under. Ed eccoci di ritorno da questi 5 minuti 50 di DazFX Jungle, e vi raccontavo appunto prima di questa uscita, ormai la seconda, nel senso che è una prima uscita della fanzine di Duke e L'E-Club, che si riunisce tutti i mercoledì in quel del Next Emerson dalle 9 circa in poi, per essere sicuri di trovare qualcuno se, se qualche persona volesse fare una capatina. Ecco, ha prodotto appunto nei mesi passati, durante il lockdown per la precisione, il numero zero della propria fanzine, e ora è uscita dopo qualche mese con il numero uno. Forse per Natale ci sarà il numero due, chi lo sa, ma vedremo. Comunque, in questo numero 2, a parte una bellissima copertina serigrafata, che se siete tra le persone fortunate che si possono trovare una copia cartacea, infatti questa fanzina è stampata anche in cartacea, ne abbiamo 100.000 praticamente qua al, in quelle dell'E-Club, se la volete in qualche modo contattateci, oppure passate il mercoledì appunto a Next Emerson e ve la portate a casa. Ecco, si apre con una bellissima copertina serigrafata e poi c'è l'indice, l'indice che ora vi vado a raccontare per dirvi un pochino che cosa ci potrete trovare dentro. Il primo articolo si intitola Sakura e patatine ed è una roba che parla di voci artificiali. In particolare analizza un po' il fenomeno delle idol in quel del Giappone. Sul tema è stato fatto anche un molto completo e molto interessante seminario in quel di Hack Meeting. Vi potete ricercare forse le registrazioni, forse le slide, chi lo sa se sono state messe online oppure no, è un'incognita, non ho verificato prima. Comunque, se non riuscite a trovare tutte queste cose, vi potete almeno leggere le 5 paginette di Sakura e Patatine. Segue quindi un progetto tutto a sfondo musicale ma tecnico, ed è l'If Do Amp, cioè un progetto per autocostruirsi un amplificatore di abbastanza bassa potenza, ma tutto fatto a manina, con tanto di circuiti, disegnetto del PCB e bla bla bla, bla, bla, bla, eccetera eccetera. E quindi cioè, dopo aver letto delle voci artificiali, se ve le volete riprodurre, vi potete anche fare il vostro bellissimo amplificatore da soli, e poi magari ci fate suonare dei vecchi vinili e fanculo alle voci delle idol. E seguono poi delle recensioni, delle recensioni scritte in verità da me medesimo. Questa in particolare riguarda il libro Capitalismo della sorveglianza, poi magari ve ne leggo un pezzettino dopo. Ma ben più interessante, l'unico motivo per cui dovreste veramente cercare di procurarvi questa fanza è il fumetto di qualche paginetta, ma è un'anteprima succosissima, di Dottor Pira su Sergio il sistemista. Una bomba. Sappiate che presto uscirà anche un libro di Dottor Pira che avrà come appunto come protagonista questo Sergio il sistemista. È una roba sciccosissima, non vi posso dire niente, ve la dovete guardare per forza. Comunque è anche online la fanza, non è che per forza è cartacea. Io ad esempio, avendo dimenticato il mio cartaceo a casa, ora sto sfogliando il PDF che potete trovare dal sito di IfDo, che è ifdo.onoblogs.org. poi magari vi metto il link nel podcast per comodità. Segue poi un articolo in italiano ma dal titolo in inglese che parla sostanzialmente di IoT e di come mettersi tutte quelle piccole cianfrusaglie giocose in casa in maniera da poter finalmente, come dice l'autore, accorgersi quando la lavatrice ha finito, e quindi non lasciare i panni dentro e che poi tocca rifarla da capo. E questo è il motore che ha motivato l'articolo. Si chiude poi con un'altra recensione. Ah, poi in mezzo in realtà me l'avevo saltato, dopo Sergio il sistemista, in realtà c'è un'altra roba che doveva essere una recensione ma non è stata interpretata come tale, che è sempre un articoletto che ho scritto io, che si intitola Pillole di paranoia. Anzi no, non era una recensione ma è stata interpretata come tale, e poi per fortuna infatti è stato... no, non è stato corretto. Niente, c'è scritto recensioninox 1, recensioninox 3. Questa sarebbe in effetti recensioninox 2, se uno vuole contare. Però per fortuna poi invece non c'era scritto recensioninox 2, ma c'era il titolo Pillole di paranoia, perché in realtà il mio voleva essere un approfondimento, non una recensione, su la questione che noi da anni parliamo della... di paranoia, in qualche modo giochiamo su questo termine, ma il mio voleva essere una sorta di approfondimento, cioè di cosa stiamo parlando quando parliamo di paranoia applicata a queste questioni, in particolare che cos'è la paranoia applicata alle questioni di potere. Cioè, vuole la paranoia definirsi una sorta di caratteristica e insieme di malattia insita nelle posizioni di potere? Secondo me sì, e all'uopo avevo citato anche una persona che ne sapeva più di me, credo, Lia Scanetti, che ha scritto un libro, Massa e potere, e proprio in quel libro si parla della paranoia in questo senso, in una maniera anche abbastanza particolare e interessante. Però insomma questo è quello che potete trovare nelle 40 succosissime pagine circa, a buon peso, ora non mi ricordo quante sono, a 41, dal PDF 41 con tanto di retrocopertina, potete trovare nel numero 1 di Ciusi, è il numero 1, ma c'era appunto prima un numero 0, che ugualmente potete scaricare dal sito, oppure se ci tenete ad avere la copia cartacea, come vi ho detto, fate un salto a trovarci o in qualche modo contattaci e troveremo il modo di farvi avere questi meravigliosi oggetti. Vi dicevo appunto che vi avrei voluto leggere qualcosina preso da un articoletto scritto appunto da me medesimo sulla fanzine, che è una recensione a questo libro, Capitalismo della sorveglianza, di Shoshana Zuboff, spero che si legga così, non ne sono affatto convinto. Comunque è stata fatta una recensione anche su Carmilla, di questo libro, che più o meno dice le stesse cose che scrivo io, però se la volete anche leggere è più lunga la sua, quindi magari ci traete più cose senza dover leggere per forza tutto il libro, che sembra essere un pochino grosso. Cioè io l'ho visto, però cioè l'ho comprato, l'ho letto quest'estate, è proprio grosso, sono tante pagine. Oddio, cioè è scritto che si legge bene, però effettivamente è grosso. Però io non volevo parlarvi degli aspetti troppo positivi del libro, ma vi volevo parlare invece dell'aspetto un po' più... un po' più deludente, ecco, di come viene presentata la questione. E da qui, al posto di parlarvene con le mie parole improvvisate, faccio che vi leggo direttamente quello che ho scritto, così magari viene un pensiero più organizzato. Allora, nel libro è tutto preciso, documentato e convincente. La parte più moscia, per l'appunto come dicevo prima, sono le conclusioni. L'autrice sembra descrivere il problema sarebbe questo del capitalismo della sorveglianza, come una sorta di degenerazione di un capitalismo che non sa trovare un equilibrio. Nella ricerca del giusto mezzo si lancia in un generico basta, che è un po' il mantra dell'ultimo capitoletto, no? Questo basta, non se ne vuole più di questa roba, che sembra una formula magica che sa di catarsi o sfogo piuttosto che di critica pratica. Se da un lato è vero che sarebbe sufficiente smettere di dare alle big company i propri dati, semplicemente, e tra virgolette, semplicemente, rinunciando all'utilizzo di massa dei social media, dell'IoT, dell'iperconnessione, risulta però difficile comprendere come un capitalismo così aggressivo, come lei descrive nel libro, così legato a doppio filo alle dinamiche di governabilità delle moderne istituzioni statali, potrebbe fare un passo indietro e accettare la sconfitta. Le masse non hanno voce in capitolo nelle strategie della produzione. Nessuno è obbligato con la forza fisica a possedere un telefono o usare i social media. Semplicemente si dà per scontato che tu lo faccia e questo ti viene offerto come normalità. Puoi rifiutarla, ma il libro è vago sulla spinta di questo rifiuto, cioè perché dovrei, se non questo generico basta? E quando concretizza con riferimenti storici, essi risultano deboli e deludenti. Tipo, nel libro si parla di New Deal e viene citato come esempio positivo di una mentalità tesa a un clima di fiducia, no? Il post-crisi del 29, che porta il capitalismo fuori dall'atmosfera di rapina di inizio Novecento. L'autrice sembra pensare al welfare come a una condizione di giustizia sociale a cui dovremmo tornare. Cioè mette assieme una grossa mole di documenti, è un riferimento molto utile in questo senso, ma l'apparato critico è fortemente assestato su una dimensione da ricercatrice accademica libera all'americana. Il libro si conclude citando il crollo del muro di Berlino in un'atmosfera in cui mi immagino come colonna sonora i Pink Floyd, il che è a mio giudizio molto banale in verità. Si inserisce in quella corrente di pensiero per cui non c'è un modello economico alternativo al capitalismo, solo declinazioni più umane. Il socialismo, che coincide con la propria incarnazione storica, è qualcosa per l'autrice sembra di mostruoso. Non a caso l'autrice attribuisce al capitalismo della sorveglianza una certa attitudine collettivista. Come dire, vedi quelli là, cioè sono poi gli stessi, capito? Che poi mangiano i bambini. La conclusione del libro è alla fine una sorta di dibattito interno tra correnti liberiste, come si potrebbe appunto tenere all'Harvard Business School, che è dove lavora questa signora. Il binomio unico possibile sta in una democrazia e un mercato responsabili, in grado di accendere una sana competizione con un pizzico di welfare per parare alle inevitabili ingiustizie sociali. Il problema di questa visione è che non è all'altezza della propria critica. Cioè, l'aggressivo capitalismo della sorveglianza, secondo me, e penso in generale, se la mangia viva. Infatti, l'autrice confida che esso caschi da solo, vittima delle proprie contraddizioni. Perché, in effetti, manifestare davanti a Google con un cartello con scritto basta potrebbe non bastare. E questa era la recensione. Ora ci toccherebbe di mettere un altro pochino di musica, quasi quasi, e poi andiamo avanti a parlarvi di tutte queste altre avventure librarie che abbiamo intrapreso con profitto, non nel senso che ci sono entrati un sacco di soldi, ma nel senso che alla fine siamo riusciti a stampare un sacco di cose su tematiche interessanti quest'estate. E quindi ora ve ne racconto un altro po', ma non prima di una breve pausa. Breve, così, questo pezzo dura 8 minuti e 10, ma non lo sentiamo tutto, a un certo punto lo interrompo, tanto non so neanche cosa stiamo ascoltando, quindi, e via. Allora, vediamo se mi riesci di far partire il pezzo. Direi che mi è riuscito. Vietnamese and army fatigues. Death squad representer, hit your ass rise up from the bottom when you enter. Hey yo, once a crackhead, hey. Always attack. Hey. You have no credibility, all that shit you talk is dead. Yeah. As sex, drugs, and violence balance the scales of reality. Y'all don't want no part to keep money. Yeah. I'm nicely and shicely. I get that ass iced deliciously. Niggas ain't shit to me. Them stupid niggas always got something smart to say. What? And probably can't even spell TWA. Hey. My crew is like police, pull up the park anywhere. Yeah. Yeah. Jump out and get it on right then and there. What's up? Niggas is pussing your ways and acting show. Ha. Plus y'all niggas dead and don't even know it. It's Death Squad LOD for life. Fuck your life. I try to let my dog go fuck you up. Hey, yo. Fuck your life. You just heard that sound. So Holly G, Reddit Man, Keith Murray, bringing the rockets to the Death Squad. Next up is the Flip Mode Squad. This is how it goes down. First up to the ring, Rampage, the last voice shout. Lord have mercy for and the infamous Busta Rhymes. 312, I'm living life as a rugged MC. When I step up in your jam, yo, I'm VIP. Niggas and bitches be eyeing me. I'm spontaneous, I'm wrecking brothers out the frame. Because I'm dangerous. I'm well known like Keith Murray and my boy Reggie Noble. Chicken heads get gas, so they call me on my mobile. I'm great distance like AT&T. I stroke like a butterfly, sting like a bee. Yo, I face them all like my man Molly G. With a nigga ass for free and making sure he see visions of me. Rampage the talk of the town. The stalker of New York that fucks up the underground. I'm coming thorough like a pack of lifesavers. Ask Marley Marl, who's the real future flavors? My technique, I freak 7 days a week, I'm undefeated. Yeah. You can see my quantum leap. I'm hitting brothers where it hurt, lyrical expert. Those who got no publishing, they need to get jerked. 100%, I get down with I intent. Rap artists be dying to a certain extent. Woo. Sometimes they use the underground to make a comeback. That shit is whack. Fade away and never come back. Now and forever, it's high evil. That men do mental, my inner center. Winter, frosted froze crews. Inventor, inventor, invader, evacuator, collapse your major. Streets and lose minds. More spits, two time on intruders for these losers. My maneuvers cross like Lugas, illegal, maybe lethal like Gibson. Spitting blessings with three weapons, laying the cut like C sections. Infested the 9-6 for you mindless niggas. I smack spineless on they back like recliners. Caps eject jewels, axe flesh wounds. With like vaginas. Ooh. Corrupt your minors like New York City's finest lineups. I'm LSD, find us in your sinus. Crush like China's opium seed grinders. Minus these rhymers I hijack like the A-liners. Traitor, creator of sinful rapers. They vicious like religious cult leaders that drop scriptures and rock clips for assault heaters. My flip mode, niggas, while like Afghanistan gorillas. If you want more information, look, listen, and read. While I sit back and I roll another fat bag of weed, we about to take control of your set like cruise control speed. Shots by my lyrical semen plants by Johnny Appleseed. Mental slave grip on your brain like white people. My music will dominate the population like black people. Utilize my efforts to exercise my every thoughts. I capitalize on my many and various styles of all sorts. Hold down the fort, smoking, drinking mad quartz. For sports, talking chicken heads and body lick shorts. Let's get the cream so that we can move up in this fortress. Bounce to art galleries and purchase exotic portraits. Here we go again, another phenomenon. When I get on, bust the rhymes of my nigga named Stretch Armstrong. We represent the ultimate unit for the 9 seasons. Flip mode squad will bust your shit for even the wrong reasons. Chaotic sound will make a nigga wanna get down. Till we come through like an ATF and shut your shit down. Alcohol, tobacco, and firearms is how we moving. Roll rapid fire flows while the music keeps you niggas grooving. I don't know who the fuck you really think you fooling. You so far from up to par and your shit needs improving. From your conversation, the way you come across, your shit is off. Malfunctioning, my nigga, you're about to feel the real force. Lay you on your face while I beat you with your head with the holy cross. Exile the weakest niggas off to the land of the lost. If you can't see this, I recommend some School for the Blind by Helen Keller. Big ups to Lord Have Mercy, Rampage and the Cellar Dwellers, Red Man and the Rockefellers. Big ups to Marley G, Keith Murray, Sunny Days and Bad Weathers. But still, we travel the world like National Lampoon. It's Busta Rhymes for the whole entire 96, so stay tuned! Flip mode completely getting inside of niggas. Death Squad, respect. E alla fine ve l'ho fatto ascoltare tutto, poi alla fine era un pezzaccio e c'era un po' di tutto qua dentro. C'era Jamal Redman Kate Murray, Rampage della Boy Scout, c'era un sacco di roba, e quindi ce lo siamo ascoltati tutti, 8 minuti pausa dal mio chiacchiericcio sconnesso, e ora procedo a presentarvi questa carrellata di Bercoli e testi interessanti, tutta roba quasi tutta cartacea, che vi invito a procurarvi in questa forma se vi piace, se no cercate online, qualcosa c'è, qualcosa no. Vi segnalo comunque tutto quello che c'è. Questo non c'è, o almeno non c'è tutto, non c'è tutto quanto, perché questa roba di cui vi sto parlando, cioè di cui vi parlerò, è un libercolo dal titolo Miti e Molotov, delle due raccoltine, due piccole traduzioni di queste interviste. Trattasi infatti di interviste a scrittori di fantascienza che in qualche modo si rifanno alla tradizione anarchica o libertaria. Per la maggior parte sono autori anglofoni, cioè che scrivono e parlano in inglese, alcuni americani, altri che provengono dall'Inghilterra e così. Il mondo sondato è un poco questo, perché l'autrice Margaret Kiljoy, che era anche una delle fondatrici dello Steampunk Magazine, che è una rivista che se vi cercate online la trovate, ed era un esperimento anche molto politico di tradurre quella che era la fascinazione dello steampunk e cacciarne fuori del materiale di critica alla società contemporanea, un esperimento molto interessante. I vecchi numeri li trovate ancora online, il progetto è comunque terminato, almeno in questa veste. Bene, lei nel 2007 aveva fatto delle interviste a scrittori anche molto famosi, tipo c'è un'intervista a Ursula Le Guin, c'è Alan Moore, altri nomi ben noti, c'è Moorcock, no? Cioè tutte anche nomi grossi, insieme a questi degli altri nomi molto interessanti, quindi anche spunti per letture non da poco. Se vi volete guardare comunque l'abstract, insomma, si trova, e poi sul sito di Collane di Ruggine trovate due piccoli opuscoletti che erano usciti tanti anni fa con parte di queste traduzioni. Ecco, tutta questa roba è stata ripresa, la traduzione è finita, è stata terminata, sono state aggiunte delle introduzioni, a opera di una delle curatrici, poi un'altra a opera dell'autrice invece di Margaret direttamente. È stato tradotto in italiano e è stampato da Contrabbandiera Edizioni, che è una piccola casa editrice molto interessante, e vi potete guardare anche sul sito, insomma, le cose che fa. Il libro è stato recentemente presentato ad Hack Meeting, quello che di cui vi raccontavo, che siamo riusciti in qualche modo a fare a settembre, dopo che era saltato a luglio per ovvi motivi, presso il Forte Prenestino. Nella prima settimana di settembre, ecco, il libro è stato presentato anche lì, e trattasi appunto di questa raccolta di interviste. Ve ne sono alcune anche abbastanza buffe di autori, tipo questo Ottavio Buonaventura è un personaggio che l'intervista è interessante da leggere, ma un po' tutte. Quella, diciamo, che è più come ci si potrebbe aspettare da lui è quella di Alan Moore, no? Alan Moore, un personaggio famoso, insomma, no? è un autore sceneggiatore di fumetti strafamoso, dai suoi fumetti sono stati tratti film che lui ha sempre poi disconosciuto, dicendogli erano che erano venuti male, che non catturavano quello che era lo spirito dell'opera fumettistica. E però appunto lui fa praticamente un trattato, perché è un po' come quando, se avete letto qualcosa di suo, è veramente denso, cioè i suoi fumetti sono praticamente delle opere di storia raccontata a fumetti, sono densissime, c'è tantissimo testo, cioè ci vuole un sacco a leggere quella roba ed è tutta super, super bella. Ebbene, lui è così anche nell'intervista, spiccicato, uguale, praticamente fa un trattato, è molto buffo. E Ursula Le Guin, anche lei un po' come me l'aspettavo, e lei racconta delle cose anche buffe su di sé. Non le parla in particolare di un libro, I Reietti dell'altro pianeta, che ha proprio come sottofondo, come alla trama, questo pianeta che vive secondo principi sostanzialmente di una società come l'avrebbe sviluppata Kropotkin, credo, con tutte le problematicità del caso nel vivere una società di questo tipo. E lei racconta un po' come è entrata in contatto con queste idee, racconta di questo librario che lei definisce estremista di sinistra di qualche città che ora non ricordo in America, che poteva essere, tiriamo a indovinare, mi sembra una città tipicamente con delle robe di sinistra, quindi forse Oakland o forse era di New York, non me lo ricordo più. Comunque questo librario, praticamente etichettato da lei come estremista di sinistra, aveva una libreria, e poi nel retro della libreria aveva una biblioteca privata alla quale sembra ti facesse accedere se gli stavi simpatico. E Ursula Le Guin se lo baccaglia un po' e alla fine gli diventa simpatica, e quindi lei accede a tutto questo materiale che per lei era, come lo descrive, materiale introvabile in America. Non so se questo fosse vero o fosse la sua visione delle cose, però tant'è, è buffo appunto che questo personaggio ti descriva questa biblioteca che sembra un po' proprio come tu immagineresti il retro bottega di una libreria gestita da un pericoloso estremista di sinistra in America. E vabbè, insomma, ci sono tante altre interviste, tante curiosità che potete a cui potete, diciamo, avere accesso leggendo codesta pubblicazione. È un libro secondo me molto, molto interessante, anche solo per gli spunti che offre, se vi appassiona il genere fantascienza, fantasy, perché Moorcock è un super autore di fantasy, no? Forse era superfluo dirlo, però era, tra l'altro dal libro emerge chiaramente che lui ha proprio una fissazione per il personaggio di Macno, quindi per quella particolare fase della rivoluzione russa, che fu la Macnocina e eccetera. Insomma, ce ne sono un po' di tutte un po', è un libro molto denso perché è pieno di spunti, però e si legge in fretta, perché comunque non è un libro, cioè non è enciclopedia, è un libretto, lo leggi, però è molto molto denso, quindi ogni riga potrebbe offrirti degli spunti, delle cose da approfondire, degli autori che non conoscevi da leggere, molto di questo materiale poi te lo devi anche sbatterti a procurartelo, perché la maggior parte di questa roba non è tradotta, quindi sono un po' cazzi tua e te lo leggi come, così com'è. l'autrice, tra l'altro, era anche l'autrice della guida steampunk all'apocalisse, che è un libro edito per agenzia X, che vi potrete scaricare dall'internet in questo tempo di semi-apocalisse lenta avverata, tendenzialmente magari vi potrebbe far piacere leggervelo. E poi l'altro libro, che esce sempre per la stessa casa editrice, La Contrabbandiera, si intitola Guida all'autodifesa digitale, ed è in realtà una traduzione da un manuale francese. Questa è praticamente una raccolta messa a modino cioè stampata a forma di libro, di manuale, della prima parte di questa guida. Questa guida infatti è divisa nettamente in due, c'è una parte che tratta il computer come oggetto offline, cioè staccato da internet, e poi c'è una parte che tratta il computer come oggetto che si attacca a internet, e tratta tutto questo nell'ottica dell'autodifesa digitale, cioè quanto rivela di noi questo oggetto, quanto lo possiamo utilizzare in qualche modo per difenderci dall'invadenza dei big data, del controllo in generale, e su questo costruiscono questo collettivo francese una trattazione completa. Secondo noi è interessante proprio perché mira a essere completa, cioè non tanto negli strumenti, che poi cambiano molto di frequente, no? Più che altro nell'approccio, cioè l'approccio che non cambia nel tempo, è comunque il tipo di approccio sensato su queste tematiche, secondo la curatrice di queste cose, cioè il collettivo che l'ha curata, e a me convince abbastanza come approccio. Questo ve lo potete vedere anche in opuscoletti, se non tenete il dinero per comprarvelo, non è che abbia un costo esorbitante, però se non ci avete neanche quello e volete guardarmi intanto di cosa si parla, su numeric.noblogs.org ci sono tutti questi opuscoletti tradotti in pezzettini, divisi in sette pubblicazioni, e più in là, probabilmente prossimo anno, si cercherà, credo, di arrivare anche alla traduzione del secondo tomo, quindi della parte che si fa quando attacco il computer a internet. Per ora no, quindi per ora se ve lo leggete tutto avete una buona percezione di tutte le problematiche legate al vostro computer quando è staccato dall'internet. Quando si attacca a internet le cose si complicano un sacco. Questo è così, tocca assumerlo, tant'è. L'ultima pubblicazione, anche questa fatta in collaborazione con Trabandiera, praticamente è una lunga spoiler pubblicitario, però di fatto sono state persone che hanno voluto investire tempo e risorse a dar voce a queste tematiche, e quindi tendenzialmente abbiamo collaborato molto con loro, ci sono state diverse collaborazioni. Questa è una roba che ci riporta un po' più allo stile Miti e Molotov, infatti non a caso vi dicevo prima che Miti e Molotov è uscito all'inizio come opuscoletti in una piccola parte di Colonne di Ruggine. Ebbene, si tratta appunto dell'ottavo numero di Ruggine, cioè riuscita questa fanzine patinata, perché alla fine è molto molto bellina, c'è anche la copertina a colori eccetera eccetera, è uscito l'ottavo numero, quindi il nono, perché anche lì si partiva a contare da zero. È una pubblicazione che in realtà però ha più di 15 anni, quindi ne esce uno ogni tanto. Sono raccontini e illustrazioni fatte ad hoc da un pool di narratrici e narratori a cui piace sperimentare con il proprio immaginario, e illustratori a cui piace illustrare quello che narratrici e narratori si sono inventati, quello che hanno pensato, quello che hanno immaginato. E anche qui, anche questo è stato presentato in quel di Hack Meeting, per questo vi dicevo che appunto Hack Meeting quest'anno è stato foriero di un sacco di novità librarie in questo senso, e tanto ce ne sono state più di quelle che vi racconto io, però magari alle prossime, non essendo che ero direttamente coinvolto in questi, in qualche modo ci sono entrato, però per le altre magari dedicherò una puntata, un pezzo di una prossima puntata, perché mi devo preparare meglio. Invece su queste andavo liscio perché già le sapevo, quindi per iniziare ho detto mi metto in una situazione di comfort e lavoro su questo, che comunque so mesi che non trasmetto, quindi cioè, volevo iniziare con qualcosa di facile. Vi leggo di Ruggine l'editoriale, che magari vi dà un'idea di quello che si trova all'interno, o almeno non tanto di quello che si trova all'interno, ma dell'approccio. Cioè di da dove nasce questa idea, rimettiamoci a scrivere, facciamo un numero 8 di Ruggine, che comunque l'idea viene prima del lockdown, però di fatto questa cosa c'è stata e non è che ha impattato poco anche sulla nostra capacità, le nostre capacità immaginifiche, ecco. Dicevo appunto dall'editoriale, così si apre l'editoriale di Ruggine. Perdere i sensi e mancare di senso. La sovrapposizione di significati del termine rende difficile la comprensione. I cinque sensi, ma anche il senso nell'accezione di significato. Darsi un senso è un'impresa non da poco nel breve tempo dell'umana vita. Il Covid-19 può provocare la perdita di due sensi, il gusto e l'olfatto, e in questi mesi ha causato pure una certa perdita di senso. Il modello dell'homo economicus è andato in crisi nell'inedia forzata del lockdown e sarebbe stato quasi piacevole osservare la situazione se non fosse stato che la crisi implica disagio, sofferenza e malessere diffuso. Non si tratta purtroppo di stare seduti sulle sponde del fiume e attendere placidi il passaggio del cadavere del nemico. Con Ruggine abbiamo amato ragionare, scrivere e scherzare amaramente di Apocalisse, intesa come genere letterario che narra del qui e dell'ora, camuffandolo da futuro intriso di simboli concepito per lenire un insopportabile presente. Nella nostra immaginazione, un evento apocalittico non rimanda a una serie di lenti passaggi, è piuttosto qualcosa di deflagrante e improvviso, al quale o si soccombe o si assurge allo status di sopravvissuti. Una dimensione esistenziale complessa e compressa tra bisogni e possibilità di riscatto, tra concreta mancanza e possibilità di esprimere il proprio immaginario, progettando una vita meglio. La pandemia attuale rompe questo schema, così come spesso la realtà fa con le suggestioni. Il Covid-19 sembra un'apocalisse endemica, inserita in un contesto sociale di per sé malato e definito normalità, al quale fortissimamente si vorrebbe tornare. Ma la pandemia si sta rivelando persistente e lenta. Le istituzioni e la loro astratta visione del corpo sociale propendono per scinderlo in unità isolate, cercando di arginare il problema, partorendo ossimori. Del distanziamento sociale non si capisce il ruolo dell'aggettivo sociale. Il distanziamento fisico si comprende, ma il corpo sociale, distanziato e diviso, perde le caratteristiche proprie legate alla socialità. Si inferisce sull'oggetto già malandato delle proprie attenzioni, con straniante e a tratti inedito interesse per la salute pubblica, posta però in continua dialettica con la cultura di sfruttamento e competizione che solitamente ci contraddistingue. E qui citazione dei Wu-Tang Clan, cioè cash rules everything around me, get the money, dollar dollar biglia, e questo è la citazione proprio di un pezzo, si chiama Cream, dei Wu-Tang Clan, che fotografa bene il nostro mondo in quattro parole. È imbarazzante scoprire di doversi occupare della salute altrui. Era più facile, per esempio, con l'AIDS, che per lavarsi la coscienza bastava lo spot con le sagome colorate di viola. Sembrava comunque un problema pertinente a Babilonia, Sodoma e Gomorra. Le istituzioni politiche e economiche sono goffe, non sono abituate a prendersi veramente cura delle persone. Spesso si ha l'impressione di assistere alla gestione di un malanno all'interno di un allevamento di polli in batteria. C'è poi quella strana capacità del capitale di generare profitto a partire dalla distruzione del valore, per cui uno stop della produzione è coperto dalla matematica finanziaria, che incenerisce miliardi, ma con la giusta combinazione di fiducia-sfiducia nei mercati è in grado di ricrearli dal niente in pochi minuti. Insomma, l'apocalisse non sembra più quella di un tempo. La visione non appartiene al profeta, ma piuttosto a qualche algoritmo predittivo nutrito a polpette di big data, una sorta di Poldo, personaggio di braccio di ferro, che ingurgita hamburger di approssimazioni digitali dei propri comportamenti. Comunque non è che sentiamo la mancanza dei profeti. Solo avremmo preferito non fossero sostituiti dalle formulette delle regressioni lineari. Con Ruggine ci sentiamo orfane di un'apocalisse decente, e quindi abbiamo deciso di investire nel nostro immaginario, componendo un nuovo numero della nostra umile rivistina. Per sopravvivere in questi tempi buffi e tremendi assieme, serve un grande sforzo creativo, che in qualche modo ispiri una notevole capacità di auto-organizzazione. Perché i tempi sono incerti, ma è sicuro come la morte che non saranno le istituzioni politiche e economiche a offrirci un'ancora di salvezza, molto più plausibile che tentino di portarci a fondo con loro. E questo più o meno è l'editoriale, e quello che trovate dentro è in qualche modo in linea con questa visione delle cose. E non è una botta di ottimismo, ma neanche di pessimismo estremo, cioè è solo un dire: se vogliamo insomma che le cose vadano in un verso, dobbiamo rimboccarci le maniche per farlo, e tendenzialmente lo Stato non lo farà per noi, almeno non di solito, ecco così. Ora, avete sentito che ho provato a alzare la musica perché effettivamente volevo mettere il pezzo di chiusura di quest'oggi, visto che ho iniziato in ritardo, però ho anche finito in ritardo, quindi sono stato bravissimo nel mio ritardo. Cioè, dovevo iniziare la mia trasmissione, sarebbe, lo dico, alle 9:30 e finisce alle 10:30. Di fatto ho iniziato verso le 10 meno qualcosa e ora sono le 11, quindi un'ora l'ho sempre fatta, il mio l'ho fatto. Posso chiudere, vi do appuntamento a lunedì prossimo con una nuova puntata di Coccoli al Silicio, sarà la 71esima, ho ufficialmente ripreso, quindi secondo me almeno per 3 o 4 volte vado e vi racconto cose. Poi sicuramente mi arrenerò di nuovo, come faccio praticamente da sempre, però comunque ho già fatto 71 puntate, quindi in qualche modo poi alla fine mi ripiglio. Cioè, non sono una delle persone più precise e costanti della radio, ma manco faccio proprio così schifo. E quindi tendenzialmente abbiate pazienza dei miei deliri. Grazie se avete avuto voglia di riascoltarmi dopo tanto tempo. Per me è stato un piacere stare a questo microfono. Lunedì riproverò questo folle piacere di nuovo. Ora vi saluto con un bellissimo pezzo di chiusura, bellissimo, insomma, un pezzo di chiusura decente. Ecco. My soul. And thank you, because now it's star time. Introducing, ladies and gentlemen, the young man has had over 35 soul classics. Among these classics are tunes that will never die. Tunes like Unbelievable, what's the 411? Somebody got to die. I got a story to tell. Kick in the door. Who shot you? Party and bullshit. Real niggas do real things. Introducing the world's greatest entertainer, Mr. Dynamite, the amazing Mr. Please Please himself, the hardest working man in show business. Ladies and gentlemen, the star of the show, Notorious B.I.G. Yeah, to all the ladies in the house, to all the ladies in the place with style and grace, allow me to lace these lyrical douches in your bushes, who rock grooves and make moves with all the mommies. The back of the club, sipping my wet is where you find me. The back of the club, macking holes, my crew's behind me. Mad question asking, blunt passing, music lasting, but I just can't quit, because one of these honeys Biggie got to creep with, sleep with, keep the epic.